E allora? Poi ma tu vai contro natura, ma vada via il culo contro natura, perché i cani che si inculano a vicino. Mamma mia, non fa niente. Quindi diventi scettico, diventi cattivo. Cioè io sono, mi ritengo una brava persona io, no? Però col tempo sono diventato cattivo, perché ti faccio un esempio. Se tu mi dai uno spintone, mi rivolto subito, se non mi chiedi scusa non subito. Il pesce rosso. Questo dovrebbe essere un posto di tutti di noi, tutti qua, invece c'è tanta falsità anche qui, capisci?